mondo freddo là fuori. Penna a mano, scrivo forte su un quaderno bianco. Tanta rabbia, tanto odio, tanto amore, dannazione. Tutto il mondo dentro tre parole, cielo e tetro. Smette male, dannazione, ci urlo contro e tiro fuori il sole. Penna a mano, scrivo forte sul quaderno bianco. Tanta rabbia, tanto odio, tanto amore, dannazione. Tutto il mondo dentro tre parole, cielo e tetro. Smette male, dannazione, ci urlo contro e tiro fuori il sole. Quanta grana a settimana servirebbe per star bene. Quanta droga nelle vene servirebbe per morire. Quanto amore nel mio cuore servirebbe per scordare. Quanto fuoco nelle torce servirebbe per cambiare. Quanta voglia di scappare servirebbe per andare. Quanta tanta nostalgia servirebbe per tornare. Quante le domande non risposte che mi chiedo. Quante le risposte che mi danno alle quali poi non credo. Il mio paese se ne frega, prega, spera nella chiesa. Ancora in alto, brilla il sole, una speranza che non muore. Tante storie dalla tele, tu che pari storyteller. Fiction, finzione, ipnotismo, sintonizzazione. Telecomando, cambia canale, alza il volume, stammi a sentire. Non da per il mondo intero, welcome to del mondo vero. Io che non ho mai voluto essere quello che non ero. Dentro c'ho il veleno vero, sento il fuoco quando prendo. Penna a mano, scrivo forte sul quaderno bianco. Tanta rabbia, tanto odio, tanto amore, dannazione. Tutto il mondo dentro tre parole, cielo e tetro. Smette male, dannazione, ci urlo contro e tiro fuori il sole. Penna a mano, scrivo forte sul quaderno bianco. Tanta rabbia, tanto odio, tanto amore, dannazione. Tutto il mondo dentro tre parole, cielo e tetro. Smette male, dannazione, ci urlo contro e tiro fuori il sole. Taglio corto, vado al dunque. Non scambiarmi per chiunque. In ogni pezzo ci sta un senso. In ogni pazzo c'è l'immenso. Penso da una vita al senso della vita. Infine in fila in cima. Lista dei pensieri che non torna più. Chi ti lascia passa insegna. Lascia un segno poi non torna. Dannazione lascia perdere. Se comprendi poi ti perdi. Questa vita dura sempre fuori orari e calendario. Guarda brutto fine mese. Misero salario. Inchiostro colato. Pene scoppiate. Mite filtrati. Vedi appannati. Quanta tanta rabbia ci vorrebbe prima di scoppiare. Quanto tanto amore ci vorrebbe per poterti amare. Quanta gente vede mi rimane in questo mare. E se pensavo fossi solo, adesso so che mi sbagliavo. Sono solo sì, ma dentro me c'è un universo. Quanti sogni, quanti incubi, dannazione dentro un verso. Quando torno stanco, morto a casa, il giorno è morto. Allora prendo penna a mano, scrivo forte sul quaderno bianco. Tanta rabbia, tanto odio, tanto amore, dannazione. Tutto il mondo dentro tre parole, cielo e tetro. Smette male, dannazione, ci urlo contro e tiro fuori il sole. Penna a mano, scrivo forte sul quaderno bianco. Tanta rabbia, tanto odio, tanto amore, dannazione. Tutto il mondo dentro tre parole, cielo e tetro. Smette male, dannazione, ci urlo contro e tiro fuori il sole. Penna a mano, scrivo forte sul quaderno bianco. Tanta rabbia, tanto odio, tanto amore, dannazione. Tutto il mondo dentro tre parole, cielo e tetro. Smette male, dannazione, ci urlo contro e tiro fuori il sole. Penna a mano, scrivo forte sul quaderno bianco. Tanta rabbia, tanto odio, tanto amore, dannazione. Tutto il mondo dentro tre parole, cielo e tetro. Smette male, dannazione, ci urlo contro e tiro fuori il sole.